Che è? Non ho capito. Mica sei un bel mazzo, mi dici modulazione. Controlla, ti sento molto basso di modulazione. Buonasera. Sei basso di modulazione, come mai? Ma io sei Luca. Aspetta un attimo. No, è giusto. Eppure è giusto. È basso di radio. Io sono basso di radio. Può voltare il microfono a bomba? Antu, adesso meglio. Antu, adesso va? Adesso va, una modulazione normale. Come normale? Non amplificare. Mai, niente amplificazione. Aspetta che prendo l'altro, dai. Ciappa, prova a prendere l'altro, adesso che va a chiamare Azzurri. Oh, guarda adesso. Sì, ora va bene. Luca, ora va bene, eh. Assumate la batteria, capito. Questa ciamballa, magari è un bel vecchia. Io uso la dura, cioè dura anni. Ma ne ho comprato uno due volte ed erano buone. Ma si sa che la dura c'è, dura c'è. Anche Varta fa delle buone batterie. Io ce l'ho avuta per tanti anni, c'è prendendi. Infatti è dura c'è, adesso vediamo. Si scarica la batteria. Era la Gabriele che ne combina una, bisogna diavolo, se no. Salotte, riso. Mi sono fatto due fettine di maiale. Ne faccio un panino. Faccio frutta. Il salotte, riso, sai come lo faccio? Non lo fa quasi mai nessuno. Al pezzo. L'abbiamo mangiato al pezzo. Vabbè, cambia la batteria un attimo. Va, va, tranquillo. Guarda adesso, Antu, microfono di prima. Ora va bene. E la batteria, la scarica proprio. Vabbè. Ne ho comprato una, ma dove sono le buone quelle lì però? Si chiamano Volta, si chiamano. Mi hanno detto che sono molto buone. Ehi, Antu, paghi subito d'altro, baracchio, se guardate quasi niente. Poi. Cappa, cappa. Allora, su internet due pezzi costano a Mauris 11,61. Cazzo, addirittura questa qua. Questa deve essere ricaricabile però. Questo è 21 euro. Che ragazza è d'oro, se 90. Pila dura c'è plus, 100% transistor, 9 volt, block, no? 6,90. Più 6 euro, che? 38 euro. Vabbè, fate una gaggedda. Ma cosa, ricaricabile? Non so se è ricaricabile, boh. Beh. Adesso me l'ha spedito sto qua la colla, ah sì, arrivo il 30 ottobre, perfetto, con tutta la spedizione e se vedete la batteria andrà, arriva il 29, la batteria del cazzo, una batteria del cacchio, ma tu li acquisti e Davide, io ho spedito tutti i baracchi. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Stavo girando il riso, stavo girando, per quello che non ti ho risposto subito. Ah, con la batteria arriva, consegna prevista 29 e 30, 30, cazzo ma sentena a me, 30 ottobre. E beh, doppio ru. Qui, ciao. Qui, gaba gaba, mi sto tornando adesso a fare un lavoro. Mi sono stressato qua. stai facendo oggi? Stavo piazzando dei fili da stendere, però la signora ha comprato i cavi più grossi dei buchi, quindi ho dovuto fare i buchi con strappano 5, 10, 10 buchi con le strappano, che sul ferro era addosso di ravalla. E poi ho dovuto mettere tutti i cavi, li ho stretti con morsetti, e ho fatto un bel lavoro là. Mi ha fatto tirarmi su. Ah, ti sei fatto pagare? No, l'ho fatto per fargli una cortesia. E mi ha fatto tirarmi su, capito? E tirarmi su, ci mi ha mangiato là? Tirarmi su, sì. Il sushi ho mangiato, sono andato anche in quello nuovo che hanno fatto a Pedanina. Cazzo, è bellissimo quel locale, siamo andati. Vabbè, ci vedi, che lì ci viene di là. Cazzo, c'erano le colonne con l'acqua che scende, è bellissima l'entrata, proprio, cioè, un bel biglietto da visita. Quelli li cagano i soldi, Gianni, capito? Non è come noi, ci facciamo il mazzo. Ciao, Cla. Ciao. Ciao ragazzi, vince sempre da vedere cosa c'è sotto. E la mafia ce lo sapevo. Sta arrivando una bomba qua, Chi c'è? Tu, lui, Gianni e poi io. Buonino, c'è tu qua, sta arrivando una bomba, però mi sta ascoltando qua. Perché poco fa non uscivo di radio, c'era la batteria scarica, quella 9 volts. Una bomba, sì, 9-10, siete tutti alti il segnale. Tutti alti, 9-10 radio 5 Lucaria, ottimo, io non so se sta andando bene, ma era acceso la stamattina anche la radio, certo, mi sono indicato anche di spegnere la blu. Mi piccolino sono io. Sì, va benissimo, vai Anto. Aspetta, il più piccolino sono io. E la matta di Nevaria, si sacchi. No, che sacchi, che sacchi. Tu sei leggermente più alto, sia di Luca che di Claudio, no, di Gianni, non capisco perché, 9-15. Ma no, non sono, sono 9 watt normali adesso. Io sto scendo con 9 watt. No, io ne ho un po' di più, sarà 20 sarà. Claro, sto scendo con 5 watt. 20 watt sono tanti. 5 watt sono tanti. 20, Antonio, rispetto a voi, sono tanti. Non so, qua sta sollevando. Aspetta. Ma ora ci è agganciato lui. No, non sono agganciato, aspetta un attimino. Sto usando il power, ma c'è al minimo il power. Cazzo, ci metto gli occhiali, non ci vedo una minchia più, vabbè che devo andare a vedere. Non sono agganciato qua. Ora. Sto usando il power. Power Ranger. Cazzo, 9.20 c'è lui, ero senza occhiali. 9.20, 9.15, 9.10 Gianni. Non è più piccolino, vabbè, allora mi attrizzo. Guarda adesso, Cla, che l'ho messo il povero a palla, guarda un po'. 20 watt saranno. 9.20, non cambia niente. Ma perché non ce l'hai più lineareggia? L'ho venduto a... A Gabi. No, non lo sapevo. Vedi, se no li facevi schiattare. Vabbè, comunque se avete un buon segnale, io tenete conto che io non vi credo, non mi costringete a mettere l'antenna sul tetto, la matta venne varia. Questa mattina sono passato, l'ho vista la macchina qua, tanta distrutta. Poi la buttate, aspettando che venga Nanni a prendersela. Chi deve venire a prendersela, Nanni? I cavoli. Ah, ok. Perché non te le vendi le gomme se non si è già messe nuove? Siete un qualcuno, qualche messaggio, non c'è la tua figlia a Facebook? No, Nanni già me la paga. La paga perché lo sa che a parte siamo amici, ma qualcosa me la dà lui perché c'è un amico che ce l'ha uguale, capito? Siccome dice il motore nuovo, turbina nuova, frizione nuova, cinghia di distribuzione nuova. Quello direttamente il mio motore che è 150 cavalli, il suo 115, e lo metterà, il motore me lo paga, gli interni mette quelli in pelle e quelli in tessuto, e poi non mi ricordo le gomme, i cerchi forse le servono, capito? Non spero rispondere al telefono. Vabbè, dai, poi mi dici. Non stai uscendo già? Come non sto uscendo? Adesso? Sto uscendo dalla tratta, adesso sì. E ho premuto male la portante. Guarda adesso se sto uscendo bene. Mo sì. Perfetto. Cavagava. Tra Claudio richiediamo Come sta andando questo apparecchio? Questo è il bagno. Accendiamo i motori, fuoco! Lampese seduto! Prova, cambio! Chi era lo profeta? Ma lo diciamo il profeta, e beh già! Buttateci tutto! Ah, va, tu sei piazzato d'ora! Motoscala! Ciao Gian! Buonasera a tutta la ciurma, a parte la portante qua che non so cogliere comunque. Salutoni a tutti! KK, dai! Oh vabbè! Claudio! Vabbè Luca! Eia, mi senti, sì? Positivo. Ciao, un profeta, buonasera. Ho salutato a tutti, ciao. Ciao, ciao. Beh, già. Hai rimesso di nuovo a posto? La settimana scorsa era tutta canta. La carità, lasciamo perdere. Sì, l'ho rimesso a posto. Funziona tutto come prima. Di qua c'è fondo scala, non so poi l'Antonio. Stavo girando il riso, dimmi. No, dico, come mi copi tu? Sei qua da fondo scala, sì. E tu come mi copi? Uguale, idee compattate. Gappa gappa, dai. Ma ti rammetti quando abito qua un vicino? Che sciuga. Certo che me lo ricordo. Adesso quale... in che zona ti trovi? A Latte Dolce. Bene, bene, allora siamo a vista, dai. Siamo a vista. Che dire? Avanti doppio. Papà, Claudio è rientrato. Claudio, dai, ecco la telefona. Volevo chiedere un controllo con questo apparecchio, come gli arrivavo lì. Papà, io ho acceso i motori, devo essere sincero. Io invece non ne ho da accendere, sono tutti spenti. No, io ho acceso il motopicco. Ma se mi muovi il cambio io. Se ne vale la pena, poi ci mettiamo in competizione. E si che scolo il riso, cioè vado a condire il riso, va. Non ti stavo chiamando poco fa, A me, Anto. Eia. Allora, il telefono era a casa, io sono andato a fare un lavoro da un'amica e praticamente l'ho lasciato a casa in carica, me lo sono dimenticato. Sì. Ok, dopo ti chiamo, te lo dico. Eia. Sono rientrato, Sì, Lugarie. Proprio un amico mi ha chiamato. Che c'era uguale fusa. KK, Claudio. Andava, meglio così. A bancaria, a Sacchetto. Bisogna andare a prenderla, portarla da Rubio e far smontare tutti i pezzi e piazzare lì. Dal verniciare, naturalmente, tutta la verniciare, eccetera. Kappa, dai, io vi saluto. Ci sentiamo dopo, se è che io vado a condire. Lo faccio mangiare anche il piccolino, dai. Ci sentiamo dopo, ciao. Ciao Antu, ciao, a dopo. Chiama dopo che adesso lo prendo fra poco il telefono quando scendo giù col cane. L'ho lasciato in carica perché ero proprio a zero, che stavo campando e poi mi ha chiamato questa amica se gli facevo una cortesia, se l'ho andata a fare, la faccio buttare tutta la sera in chivo. Cortesia di cosa? Che tu sei un lupo? No, fargli un lavoretto che ci aveva da fare. Un lavoretto di persona a personalmente, come dice Montalbano. No, è un lavoretto, devo piazzargli dei fili per stendere, dai. Va bene allora, sei perdonato. È bello, Garia. Niente, mi sono riposato, cazzo, mi sono uscito dalla mazzigliata. Boh, oiaie, cazzo, se si è ricordo di merda, deve essere, boh. Adesso, fra un po' mangio. E prendo la bustina. Ehi, io sono mi ho iniziato l'antibiotico oggi che ho fatto una rotolazione a un dente e quindi ho preso l'antibiotico adesso per 3 giorni, sino a giovedì, poi faccio il controllo e poi speriamo di aver finito. È un casino, Acla. Adesso è un casino, tuia, per carità. Dica per un profeta, vediamo se lo senti, vai già. Ehi, ciao Claudio, buonasera. sono sempre perfetto. Non vedete? Ciao, buonasera. Io sono il più piccolo di tutti, Adesso tutti attaccando, bobo. Quello che sta attaccando, quello attacca, c'è buon attaccando, vengo da attaccare, no? Anche io sono 9.10, non si preoccupare, un profeta. Quanto volete arrivare? 9.30 come arrivavate prima? Mica non vi vedo, me. Sono a 6 km da Sassari e non lo vedo neanche, perciò siete più che soddisfacenti tutti. Che bagara, vabbè, pensate sentirsi, dai, e uscire bene, poi. Non importa il segnale, ma se sentiamo bene più radio, un segnale ecco da se non c'è tutto punto. No, ma perché a me, io come segnale sono quello che sono, la radio è già buona, ma siete buoni come segnali, caspita, e non c'è problema. Ma se ti attacchi il magnum, ma già, arrivi 9.20, quindi non è che stai usando il lineare. No, non è la di lineare, questo qui è il magnum con il microfono K, quello nuovo che hanno fatto. Adesso l'hai attaccato, lo so bugiego io. 9.20 sì, con gli occhiali, perdonami già. No, solo l'ho attaccato adesso, prima ero con le Galaxy. Adesso sei 9.20, vedi. Anch'io 9.20 qua. Ma ogni tanto li faccio girare perché così tutti scaldano bene. Anch'io 9.20 qua, anch'io. Gianni, va a vedere battuti, 9.20. Ma io già ci sono vicino, va. 9.18 sì, tu. No. Cosa hai detto già? Che Antonio ha attaccato. Vabbè, Antonio ha attaccato, tu no, però. Tieni conto la posizione tua rispetto a quella di Antonio è sicuramente più favorevole a me. Ma già avete, ripeto, un buon segnale, voi fate le seghe mentali. Andate, benissimo. No profe, cazzo di una frutti tu. Oh, io non sono attaccato nulla, Cosa volevo dire? Adesso ti volevo dire una cosa, ma mi è passato di mente per via di altri argomenti. Adesso me lo ricordo, te lo dico. Adesso sono agganciato qua. Aspetta, però non so quanti watt saranno così. Aspetta. 9.20. 7.47, capito. 9.20 pieno. Quante Gianni stai arrivando? Antonio leggermente più basso, ma 9.18, mentre Rubloffetta 9.10. Cosa volete? Cazzo di lusso. Sì, ma infatti, vuoi contare la radio, capito? Sì, adesso ci possiamo trovare la batteria del MB più 4 a 0. Lo sai, Luca, il telefono ho riportato, mi hanno cambiato nuovamente il display, perfetto. Avevano messo un display che non era compatibile. Hai visto, voglio lasciarlo. Sei perfetto a posto, qua, stai lì a spendere soldi. Ma immaginavo che era il display, se si blocca. E il display, il touch, non comandava bene. Esatto, sono stati anche onesti perché non mi hanno fatto pagare niente, li ho lasciato un paio di giorni. Ho attivato l'altro che aveva di scorta, Anna. Non mi hanno fatto pagare niente. Vabbè, la prima volta ci ho pagato 140 euro, ma mi hanno lasciato anche la batteria nuova, quindi. Mi ha detto proprio quel ragazzo che c'è, che evidentemente il display che hanno messo non era compatibile. Adesso è perfetto, adesso va bene. Avanti, doppio. Io il mio ce l'ho fermo, Luca. Ma se io te lo porto e mi cambi la scheda video, va bene pure. Che cosa, il computer? Cioè, bisogna procurare una scheda video, bisogna fare la prova. Non lo so. Sicuramente è una scheda, ma il problema è che non la dà, manco ne ha due schede video quel computer, c'è quella sulla scheda madre e quella che hai comprato tu, che dice che me l'hai pagata, vabbè, quei soldi che l'hai pagata. Bisogna vedere già, c'è un problema di RAM, è quello, c'è un problema di RAM o un problema di scheda video. La scheda video bisogna provarla da qualche altra parte, da qualche altro PC. Che cazzo si può chiedere? Tutte le domande. Pensavo però. Ma tu non hai una scheda per provare, per vedere se dipende da quello? Perché ci sono delle schede che costano anche 40 euro, tanto io non ho necessità di una scheda video performante, anche perché tutto l'apparecchio è performante, già lo sai. Ecco, ora cambio qua in modulazione dal gruppo originale a Stampi. Un attimo, allora già, il problema è... problema è che bisogna essere la scheda video o la RAM. Ghisso, o si è bruciata la RAM, e se si brucia la RAM non ti va vidiata. E quello è il problema. Avanti dall'Asinaro. Tutti buon pomeriggio, San P da sotto, corpo dell'Asinara. Ciao San P, ben sentito, buonasera. Avanti Claudio. Buon Claudio, invece non lo sente. Vabbè. C'era anche già Lubrofetta, avanti. Via, ciao San P, buonasera, Lubrofetta a questa parte, avanti. Ciao, ciao, ben sentito, l'altro amico non lo sento. Comunque, buon pomeriggio a tutti. A me mi ascolti, a Sorso? Cappa Roger, ti ascolto, sì. Va benissimo. Vabbè, tu sei un po' bassino, Gianni sicuramente ti ascolta bene, perché Gianni per Sorso è più che ottimo, vai già. Ma forse sono proprio a me che non mi ascolta, vero San P? A te sembra che c'è qua vicino, busato a fianco, piedi due cicchetti. A mio processo sono favorevole perché in linea d'aria io vedo il mare proprio. Gaffa, e allora sei un po' zona alta, diciamo, dai, come me. Io sono a sotto, zona alta, vedo tutto il golfo della Asinara e dietro c'ho uno specchio tipo di monti, ma già è un po' aperto, diciamo, a livello di campo d'aria. Cappa, e va bene, interessante sentirsi, sono qui. Avanti, a chi tocca? Antonio. Antonio è andato a mangiare, forse. Claudio. Pronti, chi è che è entrato? San Pei, non so se mi sente a me. San Pei, mi senti? Vabbè, a me mi intendi. Cappa, stiamo sempre l'amico di Sosso, dai che stiamo mangiando. Ci sentiamo dopo, ciao San Pei di Sosso, buonasera. Vai, tranquillo. Sì, che lo sento un po' lontano, ma già lo sento. A me senti lontano, non penso proprio. Va bene, dai, ci sentiamo. Cappa, no, a te già ti sento. L'altro che ha modulato prima di te lo sentivo un po' più bassino, là. Stava dicendo a Claudio, a tu. Sta dicendo a me, io mica ve lo so. Non vedo. Anche tu mi stai arrivando basso comunque, segnale 3. Vabbè, riprendi, Ugarie. Stavo leggendo. Mamma esce da un supermercato, a Sassa gli rubano la borsa con lo stipendio. Allora spendi delle conce, ma dimmi tutte. E che mi sono tutti i delinquenti, è un grido. Tutti tosci, ci fa calendare. Mi ricorda quel posto, quel film di Paolo Villaggio, te la metti? Che erano tutti fuori con le moto, pronti ai numeri. Numero 10, esci a Tami, mi segava la pensione. Con i portatili. Numero 10 sta per uscire, pronti. Per carità, cazzo, mitico Paolo Villaggio. Io ogni tanto, quando lo danno qualcuno al 34, me lo guardo. E quando è andato in pensione, che l'hanno furato, appena dato l'orologio, lo stavano consegnando, l'hanno fatto l'uscire, poi l'hanno rubato. Per carità, cazzo, la mia vita mi ha fatto. Buonasera, se permesso. Sempre, avanti Tino. Aspettate, Tino, scusate. Oh, scusate che avevo gritato troppo alto. E allora? Muscolo, stamattina era in giro con Padrino. Rientrato, ce l'ho guardato le macchine. Ho telefonato, mi ha fatto vedere un po' in diretta. Aspetta che abbasso ancora. Com'è, va bene? Ah, c'è la 3 come era prima. No, che era troppo alto, c'era fuori dall'elici. Ciao Luca, ciao Gianni, ciao Claudio, non so se c'è qualcuno altro. Non so, ciao. Pochi ma buoni. Gappa, vabbè, facciamo atti giù da lui, tanto fa la spesa, insomma, vado in giro stamattina. Quanto vuoi, c'è una super che sta lavorando, è venuta la macchina a lui, ancora in Chiviera. Ma per carità, lui sto aspettando la risposta del frate. Ciao Mucco. Ciao Carriere. Grazie quanto è lungo c'è vicino, grazie, mamma mia. Vabbè, ma anche io, lo sai, cioè, io con la macchina mia vado dappertutto, con questa evito. Lo so, abbiamo già parlato, purtroppo è così. quando succedono queste cose lo devi fermare, cioè c'è la macchina emergenza, però non è che ti puoi allontanare. E vabbè, pazienza. Ma tutti i diniti, se io, che l'aria ha avuto un incidente, ha distrutto l'Alfa, cerca di distrutta, la buttare via, ti mando il voto, la buttare via, e quindi anche io mi sono buttato a raggiare, sempre con fuori strada, cosa devo fare? E purtroppo è così, l'ho fermata, e invece l'abbiamo dovuta rimettere in funzione. Se la vi, adesso sto aspettando il rientro dei cani, che mi sono fuggiti tutti e due i cani, porca miseria, si vede qualche cagnetta in calore, è uscito il rotolaio e il pastore tedesco, la stamattina. Allora, speriamo che non facciamo danno. Vai Gianni. E poi un tiro, dai. C'era anche San P, vediamo un po' se c'è ancora da sorso. Avanti San P. Cappa Roger che ci sono, saluti a Tino. Niente, ho ascoltato la storia dell'amico che gli hanno fregato la borsetta, l'ho letto su Facebook, che dice che è uscito dal supermercato e l'hanno rapinato la borsetta. Anni veri se mi arrivano i servizi. Tanto San Piace mi sta arrivando 8, lo sai, attaccato. San Pei, a me non era San Pei che ci voleva vedere, no? Mi scuffi, Tino, mi scuffi. Sì, ciao, già. Ti ascolto. Ciao San Pei, ciao. A quello che stava parlando chi era? Il secondo non è San Pei. E qua, ti presenti, qua arrivi anche in basso, quindi. Stavo andando alla radio amatoriale, se vuoi ti mando la foto, 100 euro. Fa giro la foto. Mi dammi la, guardo che radio è, forse il GV, riprendi. Un attimo, un attimino di bianco, riprenditi con Gianni e con, c'è anche lo Bruffetta, andato via. Non lo so, va bene. Hai capito già, che questo qua è uscito, che sta cercando la patatina. Ma cosa ha avuto, incidente? Ah? Cosa ha avuto, incidente con la macchina? Chi? Tu? No, grazie a Dio no. Come si dice, il separatore, qual cacchio si chiama, porca miseria. Beh, praticamente mi è andato a finire l'olio alla vaschetta, capito? Quindi ha incasinato l'impianto, devo cambiare quel pezzo lì e poi vari credo tubi, qualche manicotto, il radiatore, non lo so. Sì, vabbè, a me mi è successa una più grossa, sì. Con la macchina mia a 42.000 km mi si è rotto il piantone dello stesso, ho pagato 330 euro per fare il lavoro e l'ho dovuto mettere anche revisionato, perché se lo mettevo nuovo costava 1.000 passa euro solo il piantone. Per carità, guarda, credimi, non esco più, ma una dietro l'altra, però purtroppo è così. No, Gabriele, beh, allora. Ecco, Martino, si lavora. Casa, lavoro, fine settimana esco, vedi, questa fine settimana non lavoro di sabato, perché è festa, due giorni di riposo, e niente. Alto prezzo di mattina, sono già fatto il conto, da settembre dell'anno scorso è 27, e oggi ne abbiamo 27, sono settembre, 8, 13 mesi ci sono oggi. Va bene, sì, già vedo qualche cosa, ogni tanto, d'altronde non ci sentiamo ma ci vediamo tramite i social. Ciao Tino, buonasera. Buona. Lo so, vabbè, non fa niente, tranquillo. Già si sente ogni tanto così. Uia. Adesso con Mardigà, posso vado a mangiare qualcosa e poi una bustina, così devo mangiare anche il cane. Datemi 10 minuti. Andare. No, io i miei non gliene preparo neanche, perché tanto se non rientrano, non ne faccio da mangiare. Sono in giro per le campagne altrui. Ciao Pino, buonasera. Chi è? Buonasera, chi è? Scusate se sono entrato così veloce. Antonio sono, buonasera. Sì, Anto, ciao, scusa, già ti ho riconosciuto. È che non stavo guardando, stavo leggendo e... Ciao Anto. scappa, ciao ciao. Ehi, dai, che adesso devo andare a preparare il bambino un attimino. Se no Chicco fate casino. Ok, dai, che abbiamo mangiato, dai, continuate, stavo ascoltando. Sì, vabbè, se voi siamo qua, io sono entrato giusto a salutare perché sono 9000 e sono sempre con orecchio al cancello perché devo vedere se rientrano i cani o meno, capito? Quindi se mi assento e non rispondo è per quello. Avanti già. Che cosa è scorazzato? Usciti fuori. Avete parlato in due. Cos'è già? Ho detto scorazzando stanno i cani. Fatti le immagini. Mamma si è lasciato leggermente il cancello aperto perché stava per entrare mio padre con la macchina e l'hanno fregata. Dice un razzo, ma anzi due razzi, tutti e due pure, per carità. Il problema è che qua la gente si spaventa quando vede due colossi come quelli, capito? E purtroppo, devo dire la verità, hanno ragione. Ma che rotto vai se è scappato? Allora, padre e figlio. Perché cosa c'è? Anche un cucciolo di Rottweiler? No, il cucciolo, è già 2 anni il fatto tedesco, è 4 anni lui. Cava. Sono cani che possono fare danni, dai, quello lì è il problema, che sono un po' tiriosi come cani. I miei già sono buoni, però se trovano il suo, anche loro si girano. Cavolo, qua, ho visto una foto. Sì, sono fatti, ho già preparato tutto, sto aspettando che vengano a prendersela. Da buttare via non ne vale la pena, c'è un sacco di danno e quindi niente. Però ho già deciso di cambiarla a gennaio, cioè il prossimo anno, dai. Però adesso bisogna anticipare i tempi. Mi hai sentito? Tino Versanco al cancello. Gaiet. Vabbè, cose che succedono. È interessante se ci ha fatto male lì da bui. Macchine esce dei vagini. No, sono qua, ho cambiato microfono. È un po' patatona questa, è quella che è la più bella, questa c'ha più bassi, meno acuti. Vabbè, va, se parlo così magari è più squillante, poi non lo so. Così un po' meglio, però l'altra la preferisco. Ragazzi, io mi sento un attimo, casomai ci sentiamo dopo, ok? Dai, anche io chiudo che il cane vuole scendere giù, dai. Almeno tiro quel problema, non ce l'ha. Va bene, dai, vi saluto tutti cordialmente, è stato un piacere, fatemi risentire. Ciao! Ciao, già, alle prossime. Vai Lu, non c'è più Luca, vai ti. Venga, va bene, ciao Gianni, buona passeggiata. No, non mi stiamo passeggiando da soli. Cosa hai detto ti? Ho detto che io già stanno passeggiando da soli, ma mi sento, devo attaccare l'altro. No, già ti sento, non ti avevo capito. Vabbè, no, mio, io arrivo al cancello e torno indietro ormai. 3 anni ha fatto il cortigiano, siamo in attesa, e ci molli ma non molla, sempre bello pimpante ancora. Vabbè, hai visto ti? Ha frenato, ha pattinato, non è entrato l'antipattinamento, così mi ha detto il meccanico, ha circuitato il muro, un BMW di quelli alti, fuori strada, di tutta la macchina. Un casotto, dammi un controllo con questa classe, com'è che non sta arrivando lì? 9,10, sì, un po' più basso dell'altra. E l'altra è la più alta? Sì, l'altra mi sembrava di picchi, c'è 9,15. Aspetta un attimo. Radio? Il cazzo, boh, ma pari da ricordare la Mercedes, 9,25, radio super 5. Allora già va bene, vedi? Forse è perché la fredda. No, vabbè, questo è l'HR5005. Con la pentola sotto. cambio 9.25 e picchi qua, c'è 9.30. Sei arrivato qua a Antonello Alessio. Ma è freddo, non sta andando. La mazza ne rivaria. Ma va bene, già va bene. Baby Chakra. Sì, sì. Che bella, ma mi ricordo, l'ho avuta simile all'FT250, solo che l'FT250 della Yaesu è praticamente HF, quello invece è un V base, però per quel prezzo si può prendere, ma i dati non ne hai per poterlo contattare questo. Stavo rispondendo di là, là, a me non mi zifi. Sì, ma dati ne hai, ci sono i dati per telefonarlo? No, se vuoi l'ho contattato su Messenger. Fatti dare i dati, dico che c'è una persona interessata, fatti dare i dati, capito? Ma dov'è a Sassari? Via. Dov'è, V? È un V di quelli vecchi della ICO, un IC211 grande, 4940, un barrasone, già l'ho avuto io negli anni che furono, quelle radio lì già andavano. Non c'ha schedatoni, non c'ha niente, penso sia la 144 a 146, una cosa del genere. Beh, capo, guarda questa invece, qua, com'è? Questa è 50, 450. Sì, sì. E questo sei tutti, non cambia niente da quella del 440 a 450, la tua modulazione di sempre, 9.10 abbondante e radio 5. Già va bene, già va bene. C'è il padre che si alza, però aspetta, scusate. Va meglio, guarda. Sì, dai. Sì, già ci sentiamo, ti già va bene. Per fare due chiacchiere già va bene, non so manco quanto ti sto arrivando, io sto andando con modulati 30 watt, 20 di portante. Sì, 9.15. 9.15, buoni. Più o meno lo stesso segnale che hai tu. Andava bene, hai capito, non l'ho sentito, no? No, negativo, sul 12 non ci sto passando in questi giorni, mi sto fermando qua, visto che c'è sempre qualcuno, non l'ho sentito. Va bene. Questa visione abbordante cos'è? Qua sono Tego 7. E qua lo stesso, 6-7. Vabbè, almeno studio il QRM, anche se non c'è. Infatti, quindi già ne andati via, già nel profeta si è allontanato, lui tu cosa stai facendo? Non sto cercando, non lo trovo più a questo qua. E tu già hai parito, Non so. Allora era la videata dove l'hai vista su Facebook? Su Marketplace. No, è bellina. Se è funzionante è bellina. Non so, c'è una ciappo più. Ho scritto quel modello lì, non me lo dà più. Ma l'hai cercata in radio? L'ho cercata? L'hai cercata in radio oppure ti è uscita nella pagina iniziale? La pagina iniziale mi è apparsa. Ehi, ma va bene. Si può anche prendere, non ci sono problemi. Eccola qua, l'ho trovata io. IC... cos'è? 2000... no, 211. 211 è, dovrebbe essere o 10 watt o 25 watt, ma quella radio è degli anni 80, anni 80-90. Davide Solinas, lo conosci? Davide? Solinas, sì. No, non mi dice niente come nome. Se sei interessato, fai contattare a Tino. Ti farà un recapito telefonico e ti metti d'accordo. Lo sto dicendo, passatemi un contatto. Se non mi passi di un contatto, io non ne ho computer qua. Aspetta che scrivo se è possibile darmi il numero di telefono. Che c'è una persona interessata lì. Aspetta. Ma sono fatti dire se funziona bene, no? E ti dà zimondezza. Capito? Chiedi un po' di informazioni, ciao. E ti fai dare il numero di telefono, sarà già Claudio. Infatti non è che devo fare la transponder. No, infatti è il numero di telefono, già ci parlo io solo, no, non c'è bisogno che faccia Tino l'intermediario, già la conosce sa radio io. Lui mi manda un video a me con strumento attaccato, potenza, capite? Intanto Tony non ne ha, perché non ne ha quella radio, serve solo per parlare in diretta, e quanti fatti c'ha? se la radio esce di watt, riceve, trasmette, quel prete è buono. Se poi riceve e non trasmette o viceversa, si attacca le balle. Chi sta chiamando? Non so se sei in AM, in FM, non ti senti bene? Tutto saturo, non stai uscendo bene. Preoccupo, ma sai quello di sorso, la bacio di quello di sorso. Ha bruciato tutto perché sta arrivando anche basso. Sarà importante, mi ha dato stasi ugendi. Vannino è ti. Vanni, ma quando mai? Cioè, mi meraviglio di te. Ciao Vanni, ciao. Sì, non le tratti in radio, c'è sempre c'è radio in cantina, mi dai, vai forza, noi esci. Vanni, tutto bene? Hola, Cici. È vero, Caio, la radio sono parcheggiato. Adesso è bene, raccontata io, cosa ti fa? Aspetta Vanni, scusa un attimino, ti do il tuo numero, dici dico di chiamarti. E chiamarmi anche adesso, non c'è problema, perché se non mi chiama adesso poi se mi chiama domani io i numeri che non ho in memoria non rispondo, anche che cazzo ti consente. Adesso vedo un po', perché magari non c'era disponibile, al limite di chiamarti più spesso, cosa vuoi dire? Perché ho scritto disponibile, mi manderete il tuo numero, c'è un collega interessato. Se vuoi ti scrivo il tuo numero e scrivo chiama. Ehi, dai il mio numero, se non mi dai il suo, non lo so, vedi tu, mettimi, cerca di mettermi in contatto. Vabbè, vai Vanni, riprendi. Sì, c'è anche Franco, mi viene sempre contrando, io mi meraviglio, non entro per quello, faccio tutte e due. Sempre tu fare, mi stavo dicendo prima, sai, la stessa. Adesso potete prendere il sentito per la macchina nuova. Te l'ha comprato, però non ti dirà io, non ti può fare la macchina nuova. Che ti devo fare? Allora, il vino qua che noi non ce ne facciamo viaggi e quindi siamo poveri. Cazzo, è sempre viaggiando, sempre bene, ma ti compro la macchina nuova. A parte un fatto che non abbiamo bisogno di macchine, vabbè, ma un barco macchine. Che strumento stai usando? Aspetta, abbiamo fatto tutto, è uno strumento, una radio. Ho capito, sai, lo sai che stato viaggiando, dove state andando? Come stiamo andando? Lascio a parte, come c'è di vabbè, io sono Ginocca, bugiardo, lascio da logo. Ho detto che io e Tino di comprare macchine, non ne abbiamo bisogno, abbiamo il parco macchine. Ah, il parco c'è, sai, Tino. Beh, è Tino, sì, ultimamente, da quando sta appena col padrino, non so se fa. Sì, noia. Yeah. Allora, gli ho scritto, adesso vediamo un po' se ti risponde o se mi risponde e poi gli ho mandato il tuo numero comunque. Ehi. No, al prossimo anno, Vanni. Al prossimo anno, quest'anno va bene così, no? Ho avuto altre cose da fare, altre cose della macchina. All'anno che viene, se tutto va bene, allora facciamo anche quel passo, piano piano. Le cose ci fate di piano piano. Io ho preso per la macchina lì, perché l'altra che avevo era già. Ascolta, ma non c'è la furgonetta perché tu, quella che ho visto io? Sì, ho anche quella, c'è una Clio. Ah no, va bene, macchina che io, ma era quella doveva cambiarla. Non per me, tanto, cioè, a me va bene la mia, tu vai il parco macchine, vai giù il parco acquatico, una gazzella me la leva. Non ho capito Vanni. Stavo dicendo che chiedo perché li ho tutte le macchine, quelle che ti avevo già detto, cioè il punto di tiro, sì, per sempre quella per la fuori. Quella c'è. Poi c'è, ecco, che ho anche una Clio 1500. Ah, bene, bene, bene, ok. Datemi 5 minuti, Tino, le prendi. Eia. Va bene, ero, mi sono perso un attimino perché stavo ordinando le pizze per casa. Vabbè, comunque. Vanni, che fine avevi fatto a parte i giri che ti stai facendo? Che sì, c'era anche una cosa. Ho finito il 15 e niente, sto organizzando adesso. Niente, adesso sono qua a casa, per dire, la mia zia. Adesso no, l'8 novembre partiamo perché dobbiamo passare la casa. A parte. Quando rientra metà novembre dovrei rientrare giù perché mi stanno aspettando per rientrare, sai come è, non è di più piano, però ancora un anno mi manca il lavoro e poi vediamo che fare. Nel frattempo stiamo funzionando. Ah, aspetta Tino, volevo capire chi è l'altro di te, volevo sapere che era di più. Qua pirata in ascolto da Marrizia. Ah, vabbè, ciao, comunque, grazie. Non entro mai, è un tempo manco di entrare nel parco, ci vuole più. Ma non perché, non ho tempo. Sì, sono già andato in cattura. Come mi senti da Marrizia? Sì, arrivi a... sicuramente devo fare lo stesso, da qui continuo come piano piano. Già va bene, te ne meriti, le lavorate, quindi va più che bene, va più che bene, Vanni. D'altronde chi lavora bisogna anche un po' di relax. Vediamo, facciamo entrare Lucariello, Luca, tell Mike, vai. Luca è andato forfì, Gianni ci tocca, Claudio sta fumando la sigaretta, chi ci è rimasto? Gianni da Sorso, vai. Gappa, Stampi da Sorso, io sento Vannino, già lo sento, lo conosco anche a livello di vista, di verticale non lo conosco, però gli auguro noi. Hai capito, Vanni, sei internazionale. Sì, vabbè, sono grazie, grazie. Sono stato io a questo punto di lavoro, grazie anche alla sua gruppo, non mi piace. Stavo per dire una cosa, sono un casino, ancora quando arrivo molto spesso. Ma che sulla strada? E come cosa c'è? Ciao bandiero, sono i box, le garage sono. Sì, guarda, prima dovevamo partire, poi passare, nella strada si trova la lanterna. No, l'antenna non si vede, non si vede, è nascosta. È stato un legame. Va bene, non ci sa mai, sai com'è la gente, ma chi si cazzo l'antenna, chi sono già ben attaccato, e quindi vedo nasconderla. Se io viaggio in freezer l'antenna, viaggio buona in freezer, mi senti? Anche tu sei proprio frigo? No, mi trovo freezer, viaggio oggi. La mia è diventata lo goffolo della macchina. Ui, per carità, questi strumboli ancora non sono rientrati, che... ammoglio, sento la cagarella per la reba. Se ne ha poco lo metti in dito. Ma bullone pure va la cattarella. Oh, l'asfalto. Ah, e allora gli andava bene. Ma tu vanni sempre con quell'antenna vecchia stai uscendo. L'antenna è sempre la manta da bullone. Sì, le altre le ho abbassate stralisse. quasi col tempo, sicuramente non è però tra un po' però di mettere allora forse non è attorno e ti devo fare più ma basta tutti i tuoi ehi, tempo ve ne poco, no, io non metto niente, ho la possibilità di mettere tutto quello che voglio, ma c'ho solo le antenne filari, 15, 10, 20, 40, 40 bobacca, e per il 10 sente più niente. Sta portata, ho il telefonelli. Quindi non avete inteso nulla, là? No, perché c'era Gabriele che stava aspetta un attimo, ti rispondo subito. Che stava provando a breccare anche lui. Vabbè, dai. Comunque un saluto a tutti, io sto chiudendo che vado a rimontare il giornale. Ciao ciao! Ciao qua, ciao, un attimo mi assento anch'io, 2 secondi. Ciao qua, saluta in casa, un bacione. Ciao qua, saluta a tutti, ciao alla prossima. Anche a voi altrettanto a todos. Ciao, grazie. La pizza qui, non sono la pizza. Ancora deve arrivare. Sì, va bene. Stai pompando Vanni perché sennò non puoi in saturazione. Ok, riabbasso. Adesso è super più, perfetta. I topolini, lo sai, se non scaldano, non rendono e poi bisogna di nuovo. Ma è un po' che un po' già lo so anch'io, vedi, adesso devo abbassare un po' il carrier perché mi va fuori da LC ora qua vabbè, ma comunque già vanno alla grave, si fa questo fastidio, è un po' che non lo so, quindi adesso metto il mostro in condizione come è in stato di farmi scaricare perché poi si incontra. Ah, ci capita che intanto c'è qualcosa di nuovo in giro di 27, da qualcuno che è già da entrare, come dire, un po' morta, ma poi intanto c'è qualcosa di nuovo. Marrita, raga, Marrita, vabbè, bella zona, come se fa te che arrivo io, non interessante, che spero di arrivare con la segnata. Non vede più poi fa Marrita, no? Tutto un vatto nell'anno. Vero, vabbè, non ne vai, non me ne più in lungo. Vabbè, pirata. Avanti, avanti. Che radio stai utilizzando, giusto per? Un 48. Midland AM 48, vabbè, il classico. E Vanni, fondo scala gli arrivi allora. Lui mi arriva alle 9.40, alle 9.50, non fare, non arriva a conoscere, ma lui fa, aspetta io, quindi sicuramente gli arrivo. Io da te quanto sto arrivando, Vanni? Sì, guarda, io buono, non c'è segnale. Aspettatemi. Vediamo adesso, Vanni, aspetta, attimino. Vabbè, segnale da 5-6, da 5-0, allora che è niente, come mette 5-6? Guarda bene, cosa 5-6, lascia perdere. Adesso si vede qua, 8-9, ma per prima non è male. Tu c'è qualcosa alla radio, lo dico io. Ah, forse c'è qualcosa che non sento. andate in auto inserito, eh? Ah, bello, bello. No, no, questo vai con le Galaxy. No, perché no, aspetta che abbassiamo, sono facciamo TV. Ah, ho fruttato, è perfetta. Un'antenna. È un po' per un'antenna. Sì, un'antenna, va bene. La radiazione è in valore. Non lo so, devo mettere un vaso. È uno di questi assistenti, insomma, la città. Non è la città, ma la città. Non ho comprato un vaso. Mi ha parito, un vaso, un vaso. Cos'è il filtro IP inserito? Allora, no, non è inserito, prova a inserirlo. Perché? Il basso. Prova, guarda un po'. 1, 2, 3, 5, il basso. Infatti. Ah, ok, meglio. Vabbè, tanto non è male, va. Luca! Oia. Allora, dai, io me devo spostare. Me devo spostare perché tanto mi sta arrivando quello della pizza, quindi tra una cosa e l'altra mi devo preparare a pagarlo, perché sono magari non me la dà. No. Dopo tutta quella strada che si deve fare non si dà la pizza, io non ricredo, dico. Diglielo, capo. Ha fatto di più e poi per poco si perde. Beh, allora. Era anche io me ne vado su. E poi domani, tanto che fai con la luce. A questo caro Marrista. Ma la voce è... Sarà nostra. Magari qualche giorno capita che ci prendiamo un caffè. Va bene. Beh, ciao ragazzone, ci sentiamo, dai. Alle prossimine. Ciao anche a Pirazza e Gianni. Luca, Claudio non c'è, e compagnia cantante, dai. E un saluto a Todos. Sono prima. Dai, ciao, buona serata a tutti. Ciao. Ciao la pirata, alla prossima attacco VHF e vediamo di Tappemenò, Gabù. E attento con le VHF perché sì, sono chiuntato nel campo, Ma non è un problema, c'ho il patentino del VHF. Patentino del VHF non esiste più, quindi questo è il posto appunto di mare. Poi c'è quello di mare e tutta un'altra cosa, quello è un altro pianeta. La licenza c'ho del VHF, Happybird, radiotelefonista, eccetera. Ma dei maxi, però già andava in terra, boom. Sì, ma tutte queste diverse. Vabbè. Dovrei averne uno portato di questo radio, allocare il VHF, che me l'avevano regalato. Già sono comode quelle lì, già vanno bene. Lo so, eccolo qua, è uno A2 della nave, 01, Marine Fertilizer. Oh, pensa che l'antenna era di gomma e è marchita, che si è tutta disintegrata. Appunto, pensa, però la radio è nuova di te. Ne collegheggi un'altra antenna. Ah, no, quello sì, lo so, ma per dirti, no, la gomma dell'antenna si è sciolta. No, la radio è nuova, bella così. Uno di questi giorni lo accendo e vediamo cosa si sente e cosa c'è in giro. E cosa c'è? Niente, Marino non c'è niente. Non è che non sente niente, a parte qualcuno che è mai difficile, qualche preferito. Va bene, dai. Io pensavo di averci un'altra, perché ho fatto volere, ma quello un po' più pericoloso. E quale? Quale VHF stai dicendo? Io ce ne ho uno IC. 211 è. Quelle sono più pericolose, quindi rimane fino a ascolto qua. Va bene, adesso mi avvio, mi vado su, mi faccio una luce e riprendiamo un altro momento. Ciao comunque. Ok, buon proseguimento, ciao Vanni. Ciao a tutti. Ciao, alle prossime, ci sentiamo, buon proseguimento di serata da San Pietro.